piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ecco, quello c'è. È l'albero che la municipalità romana ha voluto regalare per illuminare il Natale dei suoi concittadini, acceso ieri dalla sindaca Raggi. Peccato che, appunto, oltre al legno, in piazza Venezia brilli ben poco. Tanto che gli abitanti dell'urbe, con la loro consueta vis polemica, gli hanno trovato subito un soprannome ad hoc: Spelacchio. E questi sono i salaci commenti che nelle ultime 24 ore hanno invaso il web. Si può dire che ironia e sarcasmo, come si dice da quelle parti, vadano su per gli rami. Ma per fortuna in giro per l'Italia si possono vedere anche pini più vigorosi. Non sarà il Rockefeller Center, ma questo è comunque l'albero che la sera di Sant'Ambrogio ha illuminato la prima milanese della Scala. E girando per la città non mancano palle luminarie di ogni foggia. Poco arboricola Napoli, che ha sostituito la tradizione nordica con qualcosa di più partenopeo. Basta però attraversare il golfo per ammirare quello di Ischia. Ed ecco in serie le immagini di come tante città d'Italia hanno deciso di piantumare le feste. Parma, per esempio, dove l'albero è stato acceso in piazza Garibaldi con tanto di immancabili cori verdiani. Come avete passato il ponte della Madonna, il ponte dell'8 dicembre? Beh, molti di voi saranno stati a casa a tirar fuori gli scatoloni con gli addobbi, con il presepe, con il muschio ancora seccato dell'anno prima, con le luminarie cinesi dell'albero di Natale, sì, perché se quelle cose stanno in casa è difficile, soprattutto se si hanno figli piccoli, esimersi dal fatto di cominciare a metterle, attaccarle al muro, come si fa ogni anno, come si fa da sempre, come si fa per ricordarci che questa mestizia del Natale ormai è irrinunciabile, quindi anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Questa mattina vorrei classificare le persone che ci ascoltano in base a delle categorie di addobbatori, ma non perché voi dobbiate per forza essere classificati in qualche maniera, perché sta prendendo piede questa nostra nuova versione di Melog che trasforma il pubblico della radio in questa ora particolare come una sorta di campione dell'italiano medio, e noi vediamo l'italiano medio in quali maniere, in quali modalità sta addobbando, addobbato, o sta in qualche maniera preparandosi a affrontare il Natale in famiglia. Prima ancora però di andare avanti, di enunciarvi le categorie, devo spezzare una lancia a favore di Spelacchio. Io trovo che sia veramente un atto di profondo razzismo aver contrapposto questo povero albero che non ha nessun'altra colpa, quella di avere i rami non perfettamente dritti, gli aghi un pochino bassi, con quello svettante modello di razza arborea perfetta che è l'albero di Natale messo a Piazza Duomo di Milano. Non è giusto, noi ci commuoviamo per i gattini, per i cagnolini, per ogni categoria tartassata, siamo sempre pronti a fare sottoscrizioni, a sentirci la parte dei giusti, perché per Spelacchio nessuno ha detto che non è giusto discriminare un pino soltanto perché è brutto, perché è spelacchiato. Se ci avesse l'alopecia e ci avesse un problema fisico, fosse un diversamente addobbabile, non merita anche lui il fatto di avere soprattutto la nostra solidarietà, ma anche di poter svolgere una professione, un lavoro, qualsiasi altro albero? Anche lui ha diritto di fare l'albero di Natale. Quindi se potete questa mattina andate a portare il vostro abbraccio a Spelacchio, che sta lì solo, muto, come la terza sentinella davanti all'altare della patria, con il suo solo un cruccio e la sua sola colpa di essere nato brutto. Sì, Spelacchio è nato brutto, non è che sia un bell'albero, fa schifo, ma che vuol dire? Anche gli alberi che fanno schifo hanno diritto di fare gli alberi di Natale. Andiamo avanti. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale Arte Allegra. Oggi ci prepariamo a realizzare il presepe. Farò vedere man mano tutte le varie fasi di come io ogni anno realizzo il mio presepe. Per fare questo laghetto per il vostro presepe vi serviranno dei sassolini che siano piccolini, di varie forme. Poi una bustina di questi trasparenti vi servirà per fare la base del vostro laghetto. Poi un pezzettino di scotch, uno stuzzicadenti. Come prima cosa con la colla a caldo vado a fare quello che sarà la base del mio laghetto. Sopra la bustina la vado a fare. Ciao cari amici sbittori famosi. Quest'oggi il tutorial sarà un po' più complesso. Vedremo come creare un terreno non piano ma con dislivello e soprattutto... Io mi domando quanti laghetti saranno stati dalle parti di Betlemme nell'anno zero. Un fiorire di laghetti, stanno tutti lì con il pescatore con la canna, con il pesciolino stagnolo attaccati, figuriamoci, stanno lì tutto il giorno, soprattutto in questo periodo, a pescare pesci nei laghetti. Lì, boh, ci sta l'Agisi, certo, cioè, ce ne stanno a tonnellate, figuriamoci, ma nella costruzione del presepe molte volte si perde il senso del tempo, della collocazione storica. Non so perché io faccio sempre un mulino a vento, lo faccio col meccano, col motorino del meccano che girano le palle del mulino a vento. Ma ci sono i mulini a vento dalla parte di Betlemme? Non lo so, può essere di sì, magari, per me c'erano. Beh, cominciamo a prendere carta e penna e cominciamo a collocarci. Io questa mattina leggerò le categorie del sondaggio, le leggerò io perché il nostro sondaggista è gravemente infermo, se non definitivamente infermo, se non proprio magari schiattato, però troveremo un sostituto, cercheremo in qualche maniera di resumarlo. Intanto lo faccio in maniera assolutamente incapace io. Categoria 1, presepisti umarellici, colla e cartapesta alla settimana e sull'albero non sprecate il vostro talento. Categoria 2, addobbatori bamboccioni, siete alberisti convinti, infarcite l'albero di Natale con palle di tutte le dimensioni, addobbi e luci che fanno il giro di tutta casa. Categoria 3, minimalisti tristi. Siete alberisti equi e solidali, alberi veri e rigorosamente solo in vaso e pochi addobbi riciclabili per la casa e il massimo che riuscite a fare è mettere un festone spelacchiato sull'attaccapanni. Categoria 4, astensionisti in fuga, farete il Natale alle Seychelles. Recupero e riassumo le categorie: 1, presepisti umarellici, 2, addobbatori bamboccioni, 3, minimalisti tristi, 4, astensionisti in fuga. A quale voi appartenete? Mario, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, io temo che di non appartenere a nessuna di queste. Vediamo. Perché io sono un alberista insoddisfatto. Perché quando ero piccolo mia mamma mi faceva un albero con delle luminarie spettacolari. Sì. I bambini natali, le palle, i lampioncini, gli accioli. Io adesso so solo i leddini cinesi, ma ho cercato in internet, non li trovo. Guardi, le posso dare un aiuto. Dunque, c'è una bancarella con due ragazze in Bangladesh, proprio qui dietro la radio. Questa mattina mi sono soffermato. Quest'anno la novità è, sono delle lampadine, come le lampadine quelle normali che si avvitano, però dentro hanno delle fantastiche luci che cambiano colore, quindi attacca l'albero con tante lampadine, poi ci sono le solite renne, slittine, alberelli, anche tutti belli glassati di neve, sono fantastici. Lei sbaglia bancarella, non vada dentro il negozio, vada a cercare le bancarelle dei ragazzi del Bangladesh, perché i cinesi ormai sono abituati che comunque sì, sono loro i padroni del Natale, da quando lanciarono il Babbo Natale arrampicato, quello che si arrampicava fuori dalla finestra, ormai viaggiano tranquilli. No, c'è una concorrenza, c'è molto forte. Cambi bancarella, questo è il mio consiglio, e troverà quello che cerca. 800240024, andiamo avanti con le nostre testimonianze. La linea artificiale è uno strumento veramente molto carino che si può utilizzare per le nostre creazioni natalizie fatte a mano, ma anche per decorare il presepe. Vi occorrerà semplicemente dell'amido di mais, della farina 00 e della schiuma da barba. Cominciamo subito. Prendete una ciotolina, chiaramente, perché è proprio qui dentro che dovremo miscelare il nostro composto. Poi prendete un cucchiaio, in questo caso faremo una proporzione con il cucchiaio. Voi, se ne volete fare di più, scegliete un altro tipo di misurino. Quindi la proporzione sarà questa. Dovrete aggiungere due cucchiai. 800240024, dobbiamo capire esattamente a che punto sta il bricolage domestico, perché siamo passati attraverso varie fasi. La fase post-guerra, la più nostalgica, la più bella, che i pupazzetti del presepe erano sempre quelli, si tramandavano di genitore in figlio, di nonno in nonno, erano stati avvolti nella paglietta finta perché le bombe non li distruggessero, erano fatti di coccio, ogni tanto si rompevano, venivano rincollati e si riverniciava con i colori a tempera e si aggiustavano con il DAS, questo almeno la mia generazione. Poi man mano si è cominciato a allargare anche il presepe all'albero l'albero di Natale, che è una cosa che è venuta un po' nel dopoguerra, prima si usava poco. L'albero di Natale naturalmente si comperava, si andava con una sega in mezzo a un bosco come faceva Homer Simpson, si tagliava una fronda perché abitava in campagna e quello diventava l'albero, o se no si comperava l'alberello di Natale con il suo panetto di terra, poi si rimpiantava e seccava subito perché era inimpiantabile l'alberetto di Natale con quelle poche radici, ma non ci speravamo. Oppure si comprava l'albero di Natale, orrore orrore, quello già tagliato, quindi era come comprare un cadavere, la gente rabbrividiva e cominciava a perdere gli aghi e naturalmente si riempiva il salottino, il tappeto del salottino di aghi di albero di Natale. Poi sono arrivati i cinesi e poi è finita la sofferenza, basta, non si è sofferto più. Fantastici alberi fucsia, verde pisello, giallo canarino, di bellissima plastica incendiabile. Quanto uno più poteva non poteva sperare per un Natale. Carla, buongiorno. Pronto? Sì, lei cosa sta facendo, cosa ha fatto, in quale categoria si colloca soprattutto? Allora, io sono sicuramente la categoria del presepio, nel numero uno. Ah, è un presepista omarellica, sì, lei. Presepista proprio convinta. Se lo costruisce lei oppure... Però il mio è un presepio un po' particolare, sì. Non credo di essere assolutamente originale, però... Ah, ma quelli belli con la fame nel mondo, con le guerre, no? No. Ogni statua è un componente della mia famiglia. Oh, che bello. Me li descrivo. Che io faccio fare in terracotta, sono molto... E lei che parte fa, la Madonna o la Pastorella? No, la Sacra Famiglia è quella. In terracotta normale. Ah, quelli però non avete osato entrare. Quelli che si rivolgono alla capanna sono delle sagomine così che hanno la caratteristica dei miei familiari. Ci metta un po', mi dica un po', il nonno dove l'ha messo? Cosa fa il nonno? I nonni che sono morti li ho messi in una specie di capannina dei Lari. Sì. E sono in coppia, i due nonni sono però lì, scusi, uno sentisse Adinolfi. Aspetta, è una commistione pagana, la capannina dei Lari nel presepe è cristiano, che c'entra? Ma l'idea me l'ha data proprio il film Il Gladiatore. Ma il gladiatore che vuol dire? Non è il precetto. Il gladiatore, allora ha fatto la capannina con i Lari, con dentro i nonni. Sì. Vabbè. E purtroppo a questi si è aggiunto anche qualcun altro. La faccia bella grande, il tempo che passa. Mia figlia col violino, mio figlio vestito d'alpino. Perché d'alpino? Ah, l'alpino, perché è alpino suo figlio. Perché quando l'ho fatto era in servizio presso gli alpini. Ah, che bel presepe. Allora ci sono un po' di morti, l'alpino, poi chi altro c'è? C'è il gatto. Il gatto, sì. E un cagnolino che abbiamo avuto per 17 anni. Ma vengono anche loro con il piccolo dono in mano o fanno parte degli animali come nei presepi tradizionali? No, fanno parte degli animali. Poi ci sono delle vecchissime pecorelle bianche che erano del presepio di mia madre. Ah, le antiche pecorine, quelle ci stanno sempre bene, quelle sono carine. E il famoso specchio. Che laghetto finto. Il laghetto. Guarda, e c'è quello con la canna che pesca, c'è? Il pescatore? No, altri personaggi non ce n'è. Ho solo conservato i magi che sono in un vaso di fiori lontano, perché io lo faccio all'esterno, sul balcone, perché avendo due gatti me lo distruggono. Ah, ci pisciano sopra, lo so. Sì, ci si sdraiano. È un sacrilegio continuo. Quindi i gatti, il presepe no, all'aperto e all'addietro. Presepe semovente. E i re magi fanno ogni giorno un passettino per arrivare precisi? Sì, dalle cassette dei fiori procedono fino... Bello. Il giorno dell'Epifania. Complimenti, vedi, una bella ricostruzione molto fantasiosa. Claudio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, che categoria appartiene lei? Sentivo la notizia del presepio fatto con i familiari. Sarebbe bello farlo con i politici, non so. Mettiamo i tre magi, c'è Salvini, sì. Berlusconi, sì. E Renzi, sì. Erode, lo facciamo sì. Far napolitano. Sì. Che pensavate? Perché è Natale, che siamo buoni, non usiamo la motosega, basta, storia dei politici. No, perché non siete originali, le cose che uno potrebbe vedere scritte in un giornaletto di paese, nella parte satirica, lasciatele fare, cioè, non mi fa ridere. Alessandro. Salve, buongiorno. Sì. Volevo soltanto riportare il mio pensiero riguardo l'albero di Natale, certo. Che è un'iniezione di amore e positività. L'iniezione è bella grossa, cioè ci vuole per sopportare un albero al posto dell'iniezione. Cioè lei si fa un'iniezione di albero. È una famiglia di amore e positività, nel senso che voglio invitare le persone a fare l'albero perché purtroppo noto che forse non si fa più come una volta. Tradizioni passate. E com'era la tradizione, la bella tradizione dell'albero, com'era? Era bella, era svegliarsi o il giorno dell'Immacolata quasi sempre o comunque un primo sabato, domenica utile, radunare la famiglia, fare l'albero, stare insieme, soprattutto oggi che la vita è sempre più frenetica e purtroppo ci devia molto ai momenti di condivisione in famiglia. E lei cosa ha fatto? Lei cosa ha fatto? Però Alessandro, lei che ha fatto a casa sua? Ho fatto un bell'albero di Natale, alto 2,40 m in casa. 2,40 m? Ho fatto ieri mattina, sì. 2,40? Ho fatto ieri mattina. Un bel soffitto, un bel ambientino, perché 2,40 è una bella estensione. E tocca il soffitto, sì. Ce n'è ancora? No, ce n'è ancora. Quindi ci ha messo la stella cometa, c'entra a questo punto. Sì, la stella cometa c'entra, sì. Beh, un albero di legno, di quelli veri, oppure sintetico? È un albero sintetico, purtroppo. Quindi lo smonta ogni anno, lo rimette dentro la sua bara e lo riapre. Sì. Però esatto. L'importante è il pensiero. Cioè, non c'è quell'odore buono di abete che c'era in casa, però uno può metterci un arbo magico attaccato, c'è anche l'odore di abete. Bene, a 800240024, Alessandro. Ah no, Alessandro, sì, Alessandro, velocemente. Alessandro c'è? Pronto? Sandro allora, troppi salve, Sandro. Buongiorno, mi scusi. C'è una categoria che non ha menzionato, quello dei balconisti abbaglianti, insomma. E oramai gli addobbi si sono spostati dall'interno all'esterno, insomma, c'è luci che Tokyo sembra periferia. Quelli che addobbano il balcone, dice lei. Sì, è interessante, sì. Questa cosa. Non di rado, ahimè, c'è qualcuno che precipita da basso, insomma. Il balconista abbagliante, colui che diciamo che dà il senso natalizio a tutto l'esterno, il suo appartamento. Sì, uno delle tante modi importanti d'oltreoceano, insomma, sì. Anche quello è. Lei ne ha vicino di balconisti abbaglianti? Io per Napoli ne vedo tantissimi, insomma, oramai, come dire, far vedere che insomma che lo sì, spazio... Ma la colpa lo sa perché vendono quelle luci, che prende un tubo, sembra il tubo per innaffiare con le lucine dentro, c'è scritto anche per esterni, e quindi uno sa che per esterni c'è il balcone e lo mette al balcone. Insomma, oramai le tradizioni si vanno perdendo, purtroppo. E lei cosa ha fatto? Io ho demandato mia moglie, insomma, mi astengo. Ah, si astengo, è un astenuto, lei è un astenuto, un astensionista in fuga, no, però in fuga no, rimane a casa. Buon continuo. Va bene, buon continuo anche a lei. Mi piace, buon continuo. Noi invece ci fermiamo un istante, continuiamo dopo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Salve a tutti, allora benvenuti in questo nuovo video. In questo video, siccome andremo spesso ad utilizzare queste palline di polistirolo, perché ho in mente di fare moltissimi progetti con queste palline, vi farò vedere in questo video come poter ricoprire qualsiasi pallina in polistirolo, quindi di qualsiasi dimensione. Io in questo caso utilizzerò la mia pallina dalla circonferenza di 22 cm. I materiali che ci serviranno saranno semplicemente un uncinetto numero 3, un ago da lana e poi un gomitolo a piacere. Per prima cosa prendiamo la nostra pallina, individuiamo la metà, vedete che qui c'è una riga, e quindi dalla metà caliamo di 2 cm. Dai, non la possiamo sentire tutta, la palla di 20 cm con l'ago 3 da uncinetto. Va bene, riassumiamo le categorie entro le quali oggi dovreste essere collocati. Delle persone che in questi giorni sono dati da fare per rilasciare un ricordo natalizio con l'addobbo domestico. Categoria 1, presepisti umarellici, colla e cartapesta da settimane. Sull'albero non sprecate il vostro talento, solo presepe. 2, addobbatori bamboccioni, alberisti convinti, infarcite l'albero di Natale con palle di tutte le dimensioni, addobbi e luci che fanno il giro di tutta la casa. 3. Minimalisti tristi, alberisti equi e solidali, alberi veri e rigorosamente solo in vaso e pochi addobbi riciclabili. Per la casa il massimo che riuscite a fare è mettere un festone spelacchiato sull'attaccapanni. 4. Astensionisti in fuga, farete il Natale alle Seychelles. Poi un altro ha aggiunto, un ascoltatore, i balconisti folli, quelli che mettono le luci nel balcone. Stiamo analizzando quanti possono essere a rappresentare questa ultima categoria. 800240024, Marco, buongiorno. Buongiorno. Lei a quale categoria appartiene? A nessuna delle quattro, perché io quest'anno ho fatto un presepe laico. Ah sì, cosa c'ha con messo? Newton al posto di Gesù Bambino. Newton è nato il 25 di dicembre. Ma dentro anche lui, dentro la mangiatoia? No, una foto scaricata da internet. Ah, così stampata. A destra Marie Curie che sì. fa la Madonna, sì. e a sinistra Galileo Galilei, un ben San Giuseppe con la barba. Vabbè, tre scienziati ha messo, sì. Sì, tre fisici. Va bene. Quindi? E il Bue e l'Asinello non sono contemplati? Il Bue e l'Asinello c'è lì dietro, avevo pensato a Einstein o qualcun altro, ma non ho avuto tempo di tirarli giù. Vabbè, un gesto diciamo verso la fiducia nella scienza, una sorta di Natale illuminista. Va bene, lei quindi è un presepista alternativo, perché mantiene la tradizione del presepe, mantiene lo schema di gioco della Sacra Famiglia, però sostituisce diciamo le forze in campo mettendoci degli scienziati. È interessante come esperimento. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ma io sono un miniaturista, sono un collezionista maniacale di statuine di Babbo Natale, da anni ormai, ne avevo collezionate circa 200 in 20 anni, poi ahimè con la separazione ho visto volare via i Babbi Natale e adesso ho ricominciato. Perché sua moglie se ne è presi 100? Se ne è presi tutti. Ah, tutte. E che ci fa l'ex signora con i Babbi Natale? Bella cosa, io spero che se proseguo la tradizione, insomma, li metta in casa come facevo io, e praticamente la casa era invasa da Babbi Natale. Deve solo sperare, per non far troppo male, che non passi al presepe vivente, solo questo. No. Non si sa mai. No. Speriamo di no, dai. Vabbè, speriamo, ormai che gli importa, se n'è andata. Pensiamo al futuro, non al passato, mi sembra, no? Assolutamente. E lei a casa sua invece, avanti. Cosa fa a casa sua? Io quest'anno, l'albero di Natale, qualche adobo da balconista, ovviamente. Ah, lei è un balconista? Mi spiega un po' la filosofia del balconista. Cos'è che muove il balconista? È un po' narcisista, nel senso che il balconista tende a mettere delle luci, degli addobbi esterni che siano sempre più belli rispetto ai vicini di casa. Ah, sorge un antagonismo con gli altri vicini. Esatto. Ne hanno anche richiamato un film americano anni fa che alla fine se sono esplose tutte le sì, luci. Sì, sono bruciate le case. Blackout. Certo, succede, sì. Vabbè, diciamo questa, diciamo anche con anche Homer Simpson, con Flanders, fanno delle battaglie terribili. È una cosa molto americana importata. Chi ha l'addobbo più lussuoso vince, e poi alla fine è un'escalation che non si controlla più. Giovanni? Pronto? Sì, Giovanni, l'ascolto. Buongiorno, sono da Padova. Niente, mi era venuto adesso ascoltando la trasmissione, sì. mi era venuto in mente di fare un albero di Natale con le figure, anziché le palline, mettere magari delle fotografie di tutti i personaggi che non ci sono più e sono stati un po' dimenticati, magari quelli che ci hanno fatto ridere da quando eravamo bambini. Però col Natale non c'entra molto, però è interessante. Non c'entra tanto, però magari mettere Stanley Olio, sì. Totò, il quartetto, eccetera. Sì. Panelli con vice valori, ecco. Beh, non dà un po' l'idea di un'idea, una Spoon River attaccata al albero di Natale, non dà l'idea un po' di tristezza, magari? Sì, ecco, sì. Perché già il comico è in sé un personaggio triste, quando è morto è tristissimo. Penso che c'è tanta gente che ha fatto tanto e che non viene. Certo, non viene più ricordata. Ecco, certo, diciamo. C'è chi si ricorda dei santi, dei filantropi, dei grandi quelli hanno ottenuto dei grandi cambiamenti alla società. Lei pensa ai comici, giustamente. Beh, mi piace che sta emergendo un filone, diciamo, fortemente reattivo rispetto alla tradizione, o anzi, meglio ancora, nel solco della tradizione, fortemente innovativo. Fare sì l'albero e il presepe, ma con elementi nuovi. Basta, siamo stancati la tradizione. Manteniamo lo schema ma cambiamo i giocatori. Questa è un po' la sintesi di questo sondaggio. Donata. Buongiorno. Dunque, il mio in realtà è molto tradizionale. L'unica nota originale presepista. Sì. L'unica nota originale è che noi abbiamo una piccola statuina di San Francesco, credo comprata in un viaggio ad Assisi. Sì. Scusi, lo fermo un altro, perché io sono di quelle parti. È quella che si pigia sulla testa, esce qualcosa di inverecondo sotto la tonaca, no? No, per quello anche vendono a Assisi. Una normalissima statuina come quelle del presepe, la testa di un San Francesco con i suoi piccioncini lì con le colombe. Con i suoi piccioncini, esattamente, è quella classica. E viene dall'altro lato del salotto rispetto a dove viene messo il presepe, sì. e che guarda il presepe, perché è lui che l'ha inventato. Il presepe è il suo inventore, dicono che a Greccio primo compose il presepe. Un'idea di una dei nostri delle figlie quando erano piccole ed è rimasta oramai anche adesso. Come nelle opere del passato, molte volte l'artista si ritreva in un angolo e mette San Francesco accanto al presepe, che lo guarda soddisfatto. Assolutamente. Bella idea. Beatrice. Sì. Io voglio dire, io sono una balconista. Donna. Balconista. Sì, ho il balcone tutto addobbato. Balconista. Con le lucette, però sul muro del balcone ho messo anche una stella illuminata bianca, una forma di stella bianca illuminata. E come l'ha costruita questa? No, la stella l'ho comprata in un centro commerciale. Uno stellificio, sì. E poi ho fatto un piccolo presepio in casa, perché ci tengo molto, perché mio padre era meridionale e faceva dei presepi che erano una cosa... Ah, costruiva presepi? In che anno? No, mio papà era un tradizionalista, essendo meridionale prendeva un tavolo, addobbava tutto, metteva le luci, metteva l'acqua che scorreva, una cosa favolosa. Quindi io sono un po' lì... Che anni erano, Beatrice? Perché questo mi ricordo anch'io nella mia fanciullezza. Il tavolo, il presepe era un tavolo, si prendeva un tavolo e si addobbava un tavolo. Mio papà prendeva un tavolo grande, metteva tutto il muschio, poi metteva tutta la capanna, tutti i pastori, poi prendeva, non so, c'aveva una specie di pompa che veniva fuori l'acqua, si girava il mulino, che l'acqua cioè, che classico, sì, è classico, tutto. Sì, perché mio padre, poi essendo meridionale, era molto... Beh, ma guarda, io lo facevo a Perugia, diciamo, la parte idrica, idrogeologica era la stessa. Sì, era stupendo, io quindi lo faccio anche in onore di mio padre, che purtroppo non c'è più, ma poi io sono molto tradizionalista in queste cose, i miei figli mi prendono un po' in giro, mi dicono che sono troppo bambina, dico bene, io la mia tradizione la mando avanti. E intanto alla faccia del vicino si becca questo bello stellone illuminato sul balcone, bellissimo. Tanto è vero che stamattina uscendo ho incontrato una signora che abita di fronte a me, perché di fronte a me non c'è nessuno che fa gli addobbi, tranne un ristorante che sono meridionali, naturalmente, certo, ha fatto tutto. E mi ha detto: dove l'ho presa? Io ho detto: l'ho presa. No. Ah, ma me la deve cercare. Dico: guardi, io non posso più andare qui, perché ero sul lago di Garda, io non posso andare a trovare. Perché? Ma è una cosa stupenda, ma insomma a me piace, però mi prende. E poi ho preso una specie di lampada che si attacca all'elettricità e manda fuori, di notte si accende e fa tutto un cielo di stelle. Ah sì, belle, bellissimo accessorio cinese, ecco. Fa delle stelline rosse, verdi. Brave, tutti i colori, c'è cioè, tutta Italia è piena. Sì, che lampeggiano anche gigantesche. Se quello lo orienta fuori della finestra, sì, lo può dirigere verso la strada sottostante al suo terrazzo, così gli automobilisti che passano avranno l'ultima visione di queste stellette rosse e verdi, certo, prima di vedere certo. Le stelle. Bella, certo, brava Beatrice. Grazie, io bella festa. Fin quando vivrò farò questo, anche se sono criticata, ma non interessa, a me interessa a me stessa. Quanti anni ha Beatrice lei? Io ne ho tanti, 82. 82, vabbè, vedi, si sta giocando bene questi anni. Patrizia, ah no, fermi tutti, no, dobbiamo fermarci un attimo, riprendiamo tra poco. Sta scaldandosi la platea. Vedete, vengono fuori delle fantastiche eruzioni nella tradizione, nel solco della tradizione. Tra poco. Oggi siamo ancora in tema natalizio, visto che il Natale si sta avvicinando sempre di più, e per questo vi propongo queste bellissime decorazioni da mettere anche sull'albero. Avete bisogno semplicemente di alcune perline, naturalmente bucate in mezzo, e di un semplice fil di ferro che naturalmente può essere di tutti i colori e di tutte i materiali di cui voi vorrete. A questo scopo munitevi di feltro rosso e bianco, forbici, imbottitura ago e fili color oro e rosso, cordoncino oro e colla a caldo. Innanzitutto preparate del feltro rosso. Con una biro e un bicchiere tracciate sulla stoffa due cerchi del diametro di circa 10 cm, lasciando un po' di distanza tra l'uno e l'altro. Io nutro una profonda ammirazione per questi signori fan tutorial su come si fanno gli addobbi di Natale, ma beati loro. Hanno delle giornate tranquille, con un sacco di tempo a disposizione, ma proprio sono veramente invidioso. Mi piacerebbe avere il tempo soltanto di seguirli tutti, mi riempiono il cuore d'immenso. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, io invece vorrei portare una testimonianza per la quarta categoria, alla cioè, quale io aspiro per il prossimo anno. Gli astensionisti, lei vorrebbe essere un astensionista. Assolutamente. E non le è permesso, perché? Ma non, diciamo che per motivi convenzionali, familiari, nonni, No, svisceriamo gli obblighi. Cosa la obbliga a fare gli addobbi di Natale? Gli addobbi faccio solamente l'albero. Diciamo che un po' la situazione in generale, non dico che mi obbliga, ma... Ma se non lo fa, cosa succede? Non ci ho mai provato. Non è che si apre il cielo e esce un ditone di Babbo Natale e la fulmina. Infatti, perché non lo non sentendolo particolarmente dal punto di vista religioso, il resto lo trovo una cosa che finché ci sono i bambini piccoli è assolutamente caldo, bel, pieno di magia per l'attesa che loro hanno. Il resto lo trovo, direi, commerciale, convenzionale, quasi obbligatorio. Sì, però quindi... guardi, non è che le cose commerciali siano brutte, le cose, cioè no, le strade no, illuminate davanti ai negozi a me mettono allegria, le preferisco anche a quelle a me, buie. Anche a me, assolutamente sì, però lo scopo dovrebbe essere una festa religiosa. Ma, no, ma quella ormai, per chi ancora questo senso è giusto, ma in realtà sì, la festa, infatti, cioè per me ogni scusa è buona per far festa, va bene anche una festa laica, sì, cioè farei tutte le feste di tutti i paesi, di tutte le regioni del mondo, perché sia ogni giorno festa, sarebbe ideale questa cosa qua, quindi infatti, che ci importa? Comunque le Seychelles per tutta la vita. Va bene, ok, beh, abbiamo capito. L'essenziale per tutta la vita? Cosa detto? Non ho capito il suo motto finale. Le Seychelles per tutta la vita. Le Seychelles, certo, può anche andarci, non è che costa tantissimo, un viaggettino se lo potrebbe anche permettere. Roberto? Pronto? Sì, Roberto. Sono Roberto. Sì, lo so, abbiamo capito. Qual è la sua atteggiamento verso il Natale rispetto alle nostre categorie? Io volevo intervenire sulle categorie. Io sì, nasco a un po' di anni, quindi nasco presepista. Presepista Marelli, così. Invece adesso dove aspetti, sta? Aspetti. E poi dopo dal nord è arrivata la tradizione dell'albero di Natale. Sì, beh, oddio, è arrivata da almeno allora 60 fa? Anni. Si mette via il presepe o si tiene l'albero? Sì. E lei allora... Io ho fatto così. Ho abbattuto un vecchio pero secco che mi ha dato sì, tante pere da mangiare e da lì, scaravoltandolo, ci ho ricavato la capanna. E sopra la capanna, in un secchio che poi dopo è abbellito da una bella disegno fatto male di Santa Claus, c'ho l'albero di Natale, quindi l'albero di Natale che è sopra il presepe. Invece quindi che... ho voluto unire le due, non perdere ha fatto una crasi praticamente, una crasi ha fatto, come si dice nei cinepanettoni, ha messo l'albero di Natale sopra il presepe, è bello, è interessante, e il pero fa la parte della capanna. Purtroppo la sento molto male. Lo so, succede, con l'età va un po' via l'udito, però ci sono degli apparecchi fantastici oggi. Roberto ha parlato? Sì, Giacomo. Pronto? Sì, l'ascolto. Io sono un balconista pentito. Sì, perché pentito? Perché sono caduto dalla scala. Ah, vedi, allora, Dio esiste, c'è una punizione anche sì, per il balconista. Però ho finito di mettere le luci. Ma cosa la spingeva, diciamo, verso la lussuria del balconista? No, è per il solito fatto. Fa rabbia no, agli altri, ai vicini. Sì, no, vabbè, anche per i bambini, insomma, è più bello addobbare un po' di luci. Però non è bello rimanere orfanelli per i bambini. Rimanere, sì, infatti. Quindi è caduto dalla scala, si è fatto molto male? No, niente di particolare, però. Però ha detto d'oggi in poi non più balconista. No. Va bene, Giacomo, sbagliando si impara, come suol dirsi. Antonio. Buongiorno a tutti. Sì. Senti, io in teoria sarei un come dire presepista. Sono un presepista tradizionale. Umarelli, così. Perché ritengo comunque che tutto ciò che sia fuori dalla tradizione sia una forzatura voluta. Certo. Per distinguersi fuori del solco c'è solo la forzatura, lo dice anche proprio il proverbio. Esatto, allora sia con il presepino sia con l'albero di Natale ci metto le palle di tutte le dimensioni, ci metto le lucette tradizionali e via discorrendo. Sono periodi in cui nessuno ci mette le palle, almeno questo è un esempio anche per gli altri a darsi da fare, giustamente. Certo, ma questo viene fuori oltretutto dal fatto di avere due nipotini piccoli che cresceranno, e quando cresceranno non avrà più nemmeno più questo bisogno. Infatti, a quel punto diventerò probabilmente un fugazionista, che è la mia aspirazione. Sì, diciamo un astensionista. Mi sembra che le categorie intermedie sono poco frequentate. L'addobbatore bamboccione sta, diciamo, diluendosi nella tradizione comunque del presepista alternativo. E l'alberista rimane, ma con una sorta di nostalgia per l'astensionista. Giuseppe. Sì, buongiorno. Senta, io... credo di far parte di una categoria abbastanza diffusa, sì, però nello stesso tempo molto diciamo in incognito, cioè praticamente quello di chi è a disposizione della famiglia, perché ci sono i bambini che hanno bisogno del Natale con tutte l'omino di casa sarebbe? L'omino di casa che però si asterrebbe volentieri dal traffico natalizio. E però non può fare da meno perché mette a disposizione della moglie, certo, è chiaro, vittima. Della moglie, e quindi arriva il fatidico domani si fa l'albero, quindi scendi in cantina, tira fuori gli scatoloni, certo. Esatto. E così come poi dopo l'Epifania che è peggio ancora. Lei si faccia coraggio, lei appartiene, diciamo, ai succubi alberisti, è chiaro, è una categoria molto diffusa, raramente si pronuncia. Lei pensi che il peggio verrà dopo la Befana? Bisogna rimettere tutto negli scatoloni quando già si lavora e portare tutto nuovamente nello scantinato. Al prossimo Natale.